Conti fatti, la storia e la memoria dell'economia di Dino Pesole. Oggi che in Italia e in Europa il fenomeno dell'accoglienza di milioni di migranti ha assunto ormai i contorni di una questione politico-sociale di primaria importanza, tanto da alimentare un po' ovunque sentimenti xenofobi e ritorni a chiusure nazionalistiche, forse vale la pena di tornare un po' indietro ad affrontare il fenomeno dal punto di vista economico. Andare indietro nel tempo, negli anni, a quando l'Italia fu a tutti gli effetti un paese di emigranti. Lo facciamo questa sera in compagnia del professor Emilio Franzina, docente di storia contemporanea all'Università di Verona, che è autore di diversi libri sul tema degli emigranti. Buonasera professore, benvenuto. Buonasera professore, buonasera. In occasione dei 100 anni dalla nascita di Paolo Cinanni, partigiano, dirigente del Movimento dei Contadini del Meridione d'Italia, fondatore alla fine degli anni 60 della Federazione Italiana dei Lavoratori Emigranti e delle loro famiglie, è stato realizzato un libro con una selezione dei suoi scritti e interventi, datati tra il 1969 e il 73, recuperati dagli archivi della Federazione. Nel testo «Che cos'è l'emigrazione?», scritti di Paolo Cinanni, il tema delle migrazioni interne e internazionali viene affrontato attraverso alcune chiavi di lettura, tra cui il rapporto tra sviluppo e sottosviluppo, le relazioni tra centri capitalistici e periferie, da cui i flussi migratori sono determinati e che, allo stesso tempo, riproducono e amplificano in tempi storici molto lunghi gli squilibri da cui hanno origine. Un po' ovunque, professor Franzina, in giro nel mondo è possibile cogliere il segno della presenza italiana. L'integrazione in moltissimi casi avvenne a prezzo di grandi sacrifici, discriminazioni se non di aperta ostilità. È vietato l'accesso agli italiani e ai cani, era scritto sulla porta di alcuni ristoranti e caffè del Belgio di oltre mezzo secolo fa. In molti sembrano aver dimenticato che anche noi siamo stati un popolo di migranti. Ecco, ascoltiamo insieme questo breve passaggio di un'intervista che venne rilasciata in quegli anni dalla signora Gertrude S., titolare del caffè Elephant di Norimberga, che spiegava perché aveva esposto nel suo locale il cartello vietato l'ingresso agli italiani. Io e mia figlia siamo sole nel locale. Ho avuto clienti italiani e tutto è sempre andato bene, ma poi per 2 giorni di seguito c'è stato un gruppo di 7-8 italiani che hanno fatto i comodi loro, hanno litigato con tutti e quando ho voluto mandarli fuori hanno seguitata la lite, coltelli alla mano, fin quando non è arrivata la polizia. Tutto è cominciato perché li ho pregati di lasciare anche agli altri avventori il calcio balilla. Era tutto il pomeriggio che lo usavano. Mi hanno detto che pagavano e che facevano quello che gli pareva. Ho messo il cartello perché quei tipi non tornino, ma non ho niente contro gli italiani. Ecco, e ora torniamo insieme all'aspetto più prettamente economico del fenomeno, professore, quale si è sviluppato nel nostro paese nel corso del Novecento. Per anni le cosiddette rimesse degli emigranti hanno costituito parte rilevante della nostra bilancia dei pagamenti. In totale, le rimesse effettuate attraverso canali ufficiali dal 1945 al 60 sono state pari a oltre 2 miliardi di dollari. Ma sfuggono alle rilevazioni ufficiali le rimesse inviate alle famiglie con i mezzi più disparati e in particolare i risparmi che gli emigrati che rimpatriavano portavano con loro. Dal 46 al 70 sono espatriati circa 7 milioni di italiani provenienti prevalentemente dalle regioni del centro e del sud. Il tasso di emigrazione, pari al 5,3% fino al 55, è salito a circa il 6,6% dal 56 al 65, per poi scendere al 4% dal 66 al 70. La corrente continentale ha continuato a prevalere su quella transoceanica, fino a pesare per il 74% nel quinquennio 66-70. La percentuale dei rimpatri, pari solo al 33% negli anni 46-51, ha superato il 70% negli anni 60-70. La svolta si registra negli anni 70, quando la recessione economica mondiale riduce la media annua degli espatri a 108.000 unità. Alla fine degli anni 80, il saldo espatri-rimpatri si è rivelato positivo di oltre 15.000 unità, a confermare come l'Italia non possa più essere definita un paese d'emigrazione. Professor Franzina, lei tra gli altri ha scritto un importante volume per Donzelli sulla storia dell'immigrazione italiana. Ecco, quali le differenze con i fenomeni di migrazione che stiamo assistendo in questi anni? Beh, differenze ce ne sono, poi in ogni caso bisogna mettere a paragone diciamo, entità e grandezze e fenomeni comparabili. Ad esempio, negli interventi che ho ascoltato anch'io fin qui, ricordando anche la figura di un amico come Cinanni, c'è il parallelismo fra le emigrazioni odierne, e dico non a caso emigrazioni, poi eventualmente spiegherò perché, e le emigrazioni nostre di un passato però relativamente recente, quello della seconda metà del Novecento. In realtà è una storia molto più lunga, è una storia che comincia come minimo all'indomani dell'Unità d'Italia e vede già con delle caratteristiche proprie i fenomeni in atto che sono stati descritti anche persino nell'ultima intervista che avete riprodotto della signora tedesca. Se io volessi fare ricorso a un'esemplificazione che riguarda il periodo molto lungo che va appunto dal 1861 quantomeno al 1945, escludendo la fase della seconda guerra mondiale e in parte anche quella della prima, avremmo un arco di tempo di quasi un secolo durante i quali i fenomeni di uscita dall'Italia di persone e lavoratori, non solo persone che andavano a lavorare ma anche le loro famiglie, è un fenomeno prolungato che dà luogo specialmente per i primi 50 anni nelle regioni del nord a una netta preferenza di emigrazioni temporanee con tanto di rimesse monetarie, che quindi sostengono lo sviluppo italiano anche dell'età, diciamo, giolittiana, perché si accumulano e sono una fonte di ricchezza inestimabile, e che provocano nei luoghi di arrivo dei nostri emigranti, ad esempio in area tedesca, nella Svizzera tedesca, ricito solo di gran carriera un episodio del 1893 relativo a un quartiere di Basilea, una città svizzero-tedesca, dove un testimone del tempo dice una roba grosso modo così: questi italiani con le loro stanze affollate tutto il giorno fanno ogni cosa con le finestre aperte, anche vestirsi come i selvaggi, siedono intorno tra di loro da mattina a sera, cantano canzoni oscene, alcuni giocano sulle note dei loro strumenti e quindi sono molto diversi da noi. Tanto per dire che le reazioni di fronte allo straniero in vari punti d'Europa, e non parlo degli Stati Uniti, non parlo dell'Australia, non parlo di altri luoghi anche più remoti raggiunti dai nostri, denotano forti somiglianze con quello che vediamo accadere ogni giorno. Dopo, le differenze ci sono ovviamente nelle modalità, ad esempio non sarebbe mai da dimenticare che buona parte di quelle che chiamiamo migrazioni, che sono emigrazioni, perché vuol dire vengono da qualche punto della terra, ecco, quelle che vediamo avvicendarsi soprattutto negli ultimi 4-5 anni sono il prodotto di uno squilibrio geopolitico generato da guerre, e nella maggior parte dei casi si tratta effettivamente di profughi o chiedenti asilo. Ma dobbiamo ricordare anche che gli stessi cosiddetti emigranti economici, che vengono invece per lo più dal continente africano, arrivano da una parte del mondo che è stata comunque sia espropriata di ogni risorsa dalle tecnologie moderne di sfruttamento delle sue tradizionali attività, che erano di economie poverissime, preindustriali, ma che bastavano un minimo di sostentamento. Quindi siamo di fronte a qualcosa di epocale. I contadini italiani, specie quelli calabresi o veneti, che emigravano già alla fine dell'Ottocento, lo facevano contemporaneamente per bisogno, ma anche per rispondere a una strategia di miglioramento. Qui per lo più c'è qualche cosa che abbiamo avuto anche noi, ma che così in grandi proporzioni non si era mai dato, di strategia per la sopravvivenza in assoluto, perché altrimenti non ci spiegheremmo come mai delle persone dotate comunque di razionalità siano disposte a imbarcarsi in viaggi penosi per centinaia o migliaia di chilometri attraverso i deserti, imbarcarsi su barconi destinati probabilmente ad affondare, pagando delle cifre anche abbastanza consistenti. E quindi ci deve essere qualcosa su cui occorre riflettere meglio oggi. Non ritiene, professore, che non sia emerso con sufficiente chiarezza l'apporto che gli emigranti hanno offerto alla crescita del nostro paese? Fino a una certa data non è successo, perché c'era la consapevolezza piena in tutti, perché era questione di ogni famiglia. Non c'è famiglia italiana che non abbia una storia di emigrazione al proprio interno, su per gli rami, o gli zii o i nonni o i bisnonni, tutti hanno avuto qualcuno che è andato all'estero per lavoro, e anche molti che sanno di avere alcuni benefici tutt'oggi come prodotto di risparmi, accumulazioni o donazioni o eredità che provengono da quel tipo di lavoro, che ci fossero rimesse o semplicemente che quello che fu costruito con le fatiche di decenni da coloro che emigravano si era addensato, si pensi agli effetti delle rimesse sul rifacimento edilizio e sulla creazione di nuove realtà, perché prima erano paesi di montagna sperduti e molto molto impraticabili, o anche paesi costieri lo stesso, poveri, e con i soldi dell'emigrazione venivano costruite delle cose che poi trasformavano questi luoghi in località di tipo turistico, la villeggiatura. Il resto professore, storia dei nostri giorni. Noi la ringraziamo molto per essere stato con noi questa sera e le auguriamo buona serata. Auguri a voi altri. Grazie, allora sabato prossimo un ringraziamento a Luca Cremonese in redazione e buona serata a tutti.